Per me amore vuol dire aver incontrato te. Il cammino e Gigi D'Agostino, che sono io, si fanno una viaggiatina fino a Messina. Ci vediamo lì. La spiegazione ve la do adesso mentre sto qui, ma poi noi ci vediamo lì, con le musiche e le storie suonate da me. Vieni anche te. Ore 22, credo. Io comincio a suonare sempre molto presto. Dove è andato Gigi D'Agostino? Secondo me la musica in discoteca potrebbe essere vissuta benissimo da un orario completamente diverso. Potrebbe cominciare tutto alle 8, tutti insieme e in discoteca e magari, capito? Dove è andato Gigi D'Agostino? Troppo presto, ragazzo. Siamo alle 9. Le 21. E allora le 21? No, era per mangiare tutti insieme, no? Vabbè, allora alle 21 sarebbe bello e piano piano ci riuscirò. Per maggiori informazioni sui due eventi siciliani, no, non i due eventi, i due eventi. Per maggiori informazioni sui due eventi siciliani, clicca sui tasti, ma usa le mani. Dove è andato Gigi D'Agostino? www.gigidagostino.com oppure www.gigidag.com. Vai nel forum e comincia a cercare. Se non trovi, ti fai aiutare. La spiegazione è finita e viva la vita. Ovunque mi piace pasticciare con i miei colori anche fuori dal foglio. Mi piace guardare altrove. Mi piace esagerare, rischiando di capire chi sono. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. D'Agostino. Qua c'è il cammino di Gigi D'Agostino. Il gattino. We'll be right back. Forza, su le mani un attimino. Tutti su, dai, dai, dai, dai. Dai Gigi, fammi sentire sta bella ragazza, dai, vai. Suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Spettacolo, frate. Tornando alla musica che suona in serata, facciamoci insieme una bella saltata. Potrei definirla lento violento, ma non dà l'idea. Son di famiglia partenopea. Non c'entra niente, ma ho il salvagente. Mi piace suonare un tormento contento e che il movimento sia lento violento. Per farmi capire meglio, forse, il mio lento violento dovrei chiamarlo genere musicale, ma secondo me non è così. Io lo chiamo movimento, perché effettivamente è uno stile di vita, una corrente di pensiero, una filosofia. È una musica che unisce. È una musica che non si sente superiore a nessun'altra musica. Together, make it work. We can make it, make it.

alle 18. Non abbiamo tempo da perdere. Dai un po', dove è andato Gigi da Cottino? Eh? Che faccia brutta che hai? Insieme a tempo, a tempo, a tempo, a tempo, a tempo, alla faccia di chi ci vuole male. D'Agostino. La differenza la fa chi balla, chi non si muove una palla.

delle vostre leghe a 3, a 1, a 5. Che dici? Se volete mandare le vostre lesliche 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Ti amo. Sono perduto. È tutto quello che so. Spettacolo, frate. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca. Prende vita. Don't be off, I'm don't be off, I'm don't be off, I'm don't be oh I be I don't be oh I'm don't be oh I'm don't be oh I'm don't be oh I be I don't be oh I'm don't be oh I'm don't be oh I'm don't be oh I be I don't be oh I'm don't be oh I'm don't be oh I'm don't be oh I be I don't be oh I'm don't be oh I'm don't be oh I'm don't be oh I'm don't be oh. Per piacere, non giochiamo, non ho nessuna voglia di scherzare. Non si può giocare. Ecco. Dai, sulle mani. Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. M2O. D'Agostino. Una grande famiglia danzante. We'll be right back.